te resterà una bugia, forse una mezza verità, ma che il ricordo debba essere sincero è un'eccessiva inelegante crudeltà. In quel giardino ad aspettarmi c'eri tu, faceva freddo, io pensavo pioverà, ma se mi guardi, se mi parli e mi baci, posso accentare anche questa realtà. Scorsa, cosa rimane se non l'ombra degli dèi? Un marchio rosso che ha scavato la mia anima, è un segno destinato a non svanire mai. Ogni tuo gesto, nessuna era banale, ho dato e avuto più di quanto sia normale, ed ascoltarti era più bello che parlare, e poi baciare all'eco. Siamo arrivati anche a farci del male e a non riuscire più nemmeno a comprenderci o ad accettare le debolezze più.